studiato filosofia per capire se si può mettere un pensiero in corsia dentro il camice che ho. Cos'è il medico davvero? Un tecnico del dolore? O un vecchio sacerdote con le mani sul tuo cuore? Tra linee guida e cartelle, tra il limite e il dover. Chi decide dove arriva il curare e inizia l'esserci per? La psichiatria come ponte tra il cervello e l'infinito, dove un sintomo è una storia che nessuno ha mai capito. Oltremoderno, dimmi chi siamo. Se Dio è davvero morto, l'abbiamo solo scacciato. L'uomo non è il padrone di tutto ciò che gli accade. È solo un naufrago stanco in mezzo a troppe libertà. Malate, fuga dalla libertà o fuga dalla responsabilità. Fromm dice scegli da solo, ma io non mi fermo qua. Tra avere o essere io provo a stare in cura, con un piede nella scienza e l'altro in un dubbio che dura. Vedo un bimbo spaventato dietro ogni regime forte. Cerca un padre nel duce, nel Führer, nella paura della morte. Dice non è l'economia la radice del terrore, ma l'infantile bisogno di qualcuno che ti tolga il dolore. Io guardo verso la fame, i mercati e le città, e sento che la storia chiede anche più materialità. Non basta dire cresce a chi non ha pane né voce. La libertà non è un dogma scritto sulla croce. Oltremoderno, dimmi chi siamo. Se Dio è davvero morto, l'abbiamo solo scacciato. L'uomo non è il padrone di tutto ciò che gli accade. È solo un naufrago stanco in mezzo a troppe libertà. Malate, fuga dalla libertà o fuga dalla responsabilità. Fromm dice scegli da solo, ma io non mi fermo qua. Tra vero essere io provo a stare in cura, con un piede nella scienza e l'altro in un dubbio che dura. Nell'arte di amare, lui difende un amore serio, fedele, responsabile, lontano dal desiderio di usare l'altro come stampella, come surrogato genitoriale, di confondere l'innamorarsi con l'ansia ospedaliera del male. Ma quando punta il dito contro l'eros di Marcuse, scambiò la libertà con le sue accuse confuse. Non è amore libero il mercato dei corpi in vetrina. La vera liberazione è creare, non consumare ogni donna e ogni rovina. L'amore autentico non è possesso né catena, è un modo di stare al mondo, di abitarne anche la pena. Non sei mio, non sei mia, sei un tu che posso scegliere se smetto di essere oggetto e ricomincio ad esistere. Oltremoderno, dimmi chi siamo. Se Dio davvero morto, l'abbiamo solo scacciato. L'uomo non è il padrone di tutto ciò che gli accade. È solo un naufrago stanco in mezzo a troppe libertà. Malate, fuga dalla libertà o fuga dalla responsabilità. Fromm dice scegli da solo, ma io non mi fermo qua. Tra avere o essere io provo a stare in cura, con un piede nella scienza e l'altro in un dubbio che dura. Avere o essere un bivio in corsia, tra il culto della merce è una fragile utopia. Una commissione di saggi, morali e virtuosi a decidere il necessario per miliardi di fragili sposi. Ma ogni platonismo che sale in cattedra porta un'ombra di chiusura a una porta che si sbarra, mentre i santi regolatori firmano in buona fede. Big Pharma sorride in fondo alla scheda. Paracetamolo sui fegati, tossicità sul bugiardino. La libertà di mercato travestita da destino. Se questa è la sinistra che sogna un mondo più giusto, capisco chi la vede specchiarsi nel suo posto più robusto. Allora torno in reparto, tra Nietzsche e la cartella, tra un esame ematochimico e una domanda troppo bella. Si può curare un corpo senza toccarne l'essere? Si può parlare di salute senza mai rischiare di crescere? Freud, Marx, Bauman, Fromm in una stanza d'attesa. Heidegger nell'angolo che misura la tua resa. Io prendo appunti storti dentro oltremoderno, cercando una via di mezzo tra l'abisso e l'eterno. Oltremoderno, dimmi chi siamo. Se Dio è davvero morto, l'abbiamo solo scacciato. L'uomo non è il padrone di tutto ciò che gli accade. È solo un medico stanco che ascolta storie malgrado le scadenze e le squadre. Fuga dalla libertà o fuga nella fragilità. forse la sola risposta è stare qui in questa realtà. Tra vero essere io scelgo la cura. Non guarirò il mondo intero, ma resterò nella sua fessura. Oltre moderno, fammi restare tra filosofia e corsia. Tra sbagliare e imparare. Se l'uomo è solo, allora non basta pensare. Ci vuole un altro uomo accanto che abbia il coraggio di curare. Che abbia il coraggio di curare.